Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buongiorno a tutti e buon inizio settimana a tutti da Deborah Rosciani, bentrovati a Salva Danaio. Li chiamano i prestiti peer-to-peer, cioè da pari a pari. Sono i prestiti fra privati che stanno cominciando a crescere anche nel nostro paese, approfittando della restrizione del credito in corso da qualche mese dai canali finanziari tradizionali. Tra l'altro è una situazione che mette in difficoltà molte persone che avrebbero bisogno e che si trovano invece molte porte chiuse. Per accedere ai prestiti tra privati bisogna utilizzare internet, essere naturalmente molto seri sia come richiedenti del prestito ma anche come prestatori del denaro disponibile. Soprattutto in questo ambito i controlli sono molto accurati. In Italia il canale del social lending, così si chiama questo fenomeno, si è diffuso da poco, da circa un paio d'anni, grazie al lavoro di due società che hanno portato in Italia questo modello molto diffuso, in particolar modo nei paesi anglosassoni. Ma funziona da noi? Chi fa richiesta di credito attraverso questo canale? In quanto tempo e come si restituisce questi prestiti? Che tassi vengono applicati? Sono tante le domande a cui cercheremo di dare una risposta questa mattina con i referenti di queste due aziende. Buongiorno a Maurizio Sella, amministratore delegato di Zopa, che è la prima. Buongiorno. E grazie anche di essere con noi, anche se un po' infortunato, almeno da qualche giorno, a Manolo Maffeis, direttore generale di Buber Italia. Maffeis, tutto a posto? Tutto a posto, buongiorno a tutti, grazie mille per l'invito. E grazie anche a lei per essere con noi. 800 24 00 24 è il numero verde per i vostri interventi, per le domande degli ascoltatori. 349 238 6666 è invece il numero per i vostri messaggi. Partiamo anche con il racconto di borsa, lo facciamo sempre, stamattina lo facciamo particolarmente volentieri perché il quadro è molto positivo in avvio di settimana, un avvio di settimana che alcune agenzie hanno giustamente definito sprint. Più 1,33% adesso a Parigi, più 1,70% a Francoforte, Londra più 1,72%, Milano più 3,31%. Cosa succede? Che in tutta probabilità in giornata verrà dato annuncio formale del nuovo piano americano per svariati miliardi di dollari per liberare le banche dagli cosiddetti asset tossici, e dunque questa è una notizia che stamattina sta incoraggiando gli operatori a tornare ad acquistare i titoli nel settore bancario, e in particolar modo questi sono i titoli che si stanno mettendo in evidenza a Piazza Affari. Unicredito ritrova 1,32 euro, più 8,61%, Intesa San Paolo riacciuffa i 2 euro, più 7,24%, e poi tra gli altri rialzi segnaliamo la ex autostrada Atlantia più 6,61, Pirelli più 6,47, il Banco Popolare più 5,75, Mediobanca più 4,77, Monte dei Paschi, Popolare di Milano più 4, più 4 anche per Buzzi Unicem e Fondiaria, più 3,5 punti per UbiBank e Alleanza. Insomma, una buona giornata, questi sono i migliori titoli, mentre abbiamo un po' di difficoltà su Luxottica che sta perdendo l'1,81%, Snam Rete Gas meno 0,5. Abbiamo tre debutti oggi a Piazza Affari, tre società che ne sostituiscono altre che sono invece uscite dal listino, dall'S&P MIB 40, sono uscite Fastweb, Seat Pagine Gialle e L'Espresso. Al loro posto debuttano Ansaldo più 0,37%, CIR più 1,64% e Campari, che stava andando particolarmente bene stamattina, anche adesso guadagna il 3,32%. Questo è il quadro di borsa. L'euro sul dollaro ancora piuttosto pimpante, 1,36,43, il rapporto di cambio in questo momento sta un po' disturbando il mercato il petrolio. Da qualche giorno il WTI, il greggio di riferimento americano, è tornato sopra i $52 al barile. Speriamo che si fermi qua, ma non è detto. In ogni caso, lasciamo la borsa, lasciamo il petrolio, lasciamo le valute, andiamo al tema di questa mattina. Oggi parliamo di prestiti, ma non parliamo del credito al consumo come siamo spesso abituati a fare a Salva Danaio. Oggi parliamo di quella che al momento rappresenta ancora una nicchia, chissà se ha delle potenzialità di crescita nel nostro paese. Parliamo del prestito sociale. Delusione dagli scossoni di borsa, accesso al credito sempre più difficile e desiderio di forme di investimento alternative, ma allo stesso tempo trasparenti e chiare. Sembrano essere queste le ragioni principali che hanno spinto sempre più risparmiatori italiani verso il social lending, il fenomeno del prestito online tra privati, sbarcato in Italia poco più di un anno fa. E non è un caso se proprio nei giorni dei crolli dei mercati azionari i luoghi di scambio virtuali dove si pratica l'ultima frontiera del mondo del credito, come Zopa e Buber, sono stati presi d'assalto. Ma come funzionano esattamente? Si tratta di una sorta di comunità virtuali che agiscono in pratica da semplici facilitatori dello scambio. Creano il mercato mettendo a disposizione una piattaforma sulla quale si possono incontrare domanda e offerta. Qual è il vantaggio? Chi presta denaro e chi lo riceve percepisce mediamente una quota di interessi più favorevole rispetto a quella proposta dal mercato bancario attuale. I prestiti tra privati costano infatti meno del credito al consumo. Il TAEG, il tasso annuo effettivo globale applicato ai migliori rischi di credito, è intorno al 6%, dove invece il tasso bancario per i prestiti personali mediamente supera l'11,5%. Un debitore meritevole di credito, dunque, ottiene i soldi più rapidamente e al 5% in meno di costo rispetto alle banche. I costi di intermediazione sono ridotti al minimo, un po' come accade per le assicurazioni online, ad esempio, in quanto il prestatore e il contraente del prestito vengono messi in comunicazione diretta attraverso la società che fa da garante in caso di morosità. 800 24 00 24 è il vostro numero verde per le vostre domande, per intervenire in diretta, non solo con domande ma anche considerazioni sull'argomento di questa mattina. 349 238 6666 il numero invece per i vostri messaggi. Dottor Sella, cominciamo con Zopa. Ho letto qualche statistica recente relativamente alla vostra attività. La crisi fa volare il prestito sociale, febbraio mese record con più di 500.000 euro di prestiti erogati dalla vostra piattaforma? Esattamente, beh, siamo molto contenti perché quella che era una scommessa soltanto un anno fa di portare il social lending anche in Italia, dopo l'esperienza di Zopa in Inghilterra, si sta rivelando vincente. Noi ad oggi abbiamo quasi 35.000 iscritti, abbiamo erogato prestiti per 5 milioni e 300 mila euro e devo dire francamente che l'interesse sia dei media ma che anche dei nostri prestatori richiedenti dal mese di novembre è certamente molto aumentato. Quindi direi che sì, la crisi finanziaria, se vogliamo, ha portato maggiore interesse a Zopa.it. E infatti questo è un aspetto interessante, ma ritenete che la crisi abbia portato maggiore interesse verso questo canale per accedere al credito proprio perché le banche hanno chiuso lo sportello tradizionale, diciamo pure così, o comunque perché in due anni siete riusciti a farvi conoscere un po' di più rispetto alla partenza? Beh, ovviamente entrambe le cose. Essendo noi basati su internet, è chiaro che il passaparola è molto importante. Non solo, ma ormai abbiamo compiuto un anno di attività, quindi anche chi ha prestato i propri soldi, così come che li ha richiesti, ma chi ha prestato in particolare ha visto che siamo una società seria, che i prestiti che sono stati erogati, che sono circa un migliaio ad oggi, hanno assolutamente rimborsato nella grandissima maggior parte gli interessi e i capitali dovuti, quindi certamente c'è un'esperienza. Il tempo chiaramente accresce il trust, per usare una parola inglese, in strumenti di questo genere. Quindi Zopa in realtà anglosassone, sì, in origine. Buber invece olandese. Manolo Maffeis, buongiorno ancora. Sì, buongiorno a voi. La società che praticamente in Italia ha organizzato questa joint venture con la Buber olandese si chiama Centax, però noi conosciamo appunto il social lending vostro come quello che pratica Buber Italia, giusto? Esattamente. E a voi come andate in questo periodo di crisi del credito? Beh, anche noi abbiamo sicuramente visto un incremento sia di visite che di richieste di iscrizione, quindi sicuramente la crisi ha dato un'ulteriore spinta a un fenomeno ancora giovane che ha comunque davanti a sé ancora una lunga strada con ottime prospettive. Ecco, ma la percezione è che vi cerchino soprattutto le persone che in questo momento sono in difficoltà a riuscire ad ottenere un prestito dalla banca o da una finanziaria di carattere tradizionale, oppure il passaparola vi ha fatto crescere, quindi diciamo, non lo so, non ci si va per niente in banca, si sceglie direttamente un canale come questo? No, beh, io credo che bisogna essere realisti, le banche, le finanziarie rappresentano comunque un ruolo importante nel mercato del credito e continueranno sicuramente a svolgere questa funzione importante. Noi diciamo che il social lending ha portato di positivo il fatto che rappresentiamo un'alternativa ai canali tradizionali, quindi un'alternativa a cui ci si può rivolgere. È chiaro che in un momento di difficoltà succede un po' di tutto, quindi persone che magari privilegiano social lending rispetto ai canali tradizionali, oppure persone che sono state respinte dai canali tradizionali, quindi che provano anche la strada del social lending. Quindi e questo non sempre porta un risultato positivo. Sicuramente negli ultimi mesi è aumentato il numero di richieste, ma è anche peggiorato, diciamo così, per il profilo creditizio medio delle persone che si avvicinano al social lending. A noi capita di affrontare questo argomento molto spesso, in realtà abbiamo appreso anche che anche chi ha mantenuto assolutamente inalterato il proprio profilo creditizio in questo momento per decisioni commerciali che stanno coinvolgendo tutte le banche si ritrovano lo sportello chiuso, la porta chiusa, per cui in realtà forse proprio per queste persone l'alternativa del prestito sociale è l'alternativa più valida, perché non lo so, dottor Sella, se è una persona la banca dice no perché non ha comunque un profilo adeguato, è questo il canale giusto? Beh, ovviamente soltanto le persone che abbiano un merito creditizio di tipo bancabile possono ottenere dei prestiti sulle piattaforme, su una piattaforma come Zopa. Quindi non deve essere considerata come un'alternativa per categorie ad alto rischio. Diciamo che anche noi abbiamo visto un incremento di richiedenti prestito, sicuramente dobbiamo stare molto attenti, anzi ancora di più in questo momento, perché comunque sì, anche se nel servizio si diceva che noi eravamo garanti della morosità eventuale dei richiedenti, in realtà noi non siamo proprio dei garanti. Questi sono prestiti tra privati, noi diciamo abbiamo una certa responsabilità. È chiaro che se incominciassimo ad approvare richiedenti prestito che poi si dimostrano di essere morosi, ovviamente i prestatori non mettono più soldi e non prestano più soldi a richiedenti e quindi Zopa. Si inceppa naturalmente inevitabilmente un po' tutta l'attività. Allora, visto che adesso stiamo facendo un discorso di carattere molto generale, ma ci interessa invece con degli esempi pratici capire come si fa ad accedere a voi, sia in qualità di richiedenti del prestito, ma qualora ci trovassimo della liquidità che non sappiamo come impiegare in questo momento, visto che la borsa non rende niente, i titoli di Stato, anzi la borsa continua a scendere, ma in questi giorni sta andando benino, i titoli di Stato rendono quello che rendono, allora magari qualcuno addirittura valuta come prospettiva di investimento la scelta di mettere, di darvi della liquidità per eventualmente appunto farla utilizzare a persone che hanno bisogno. Ma Face, cominciamo con lei. Allora, intanto, qual è il taglio minimo del prestito che si può ottenere tramite Buber? Il taglio minimo sono 2.000 euro fino a un massimo di 10.000 euro. Quindi da 2.000 ai 10.000 euro. Esatto. Quindi come funziona? Ammettendo che io abbia bisogno di, non lo so, un prestito di 1.000 euro perché devo comprare la lavatrice e il frigorifero nuovo e magari la finanziaria tradizionale non mi accontenta, o magari reputo che abbia un tasso banalmente troppo alto, quindi scelgo di utilizzare questo canale. Perché poi, esatto, noi parliamo solamente di necessità, di bisogno, si può scegliere questo canale anche perché l'alternativa è costosa, quindi forse l'alternativa è costosa oppure sicuramente c'è molta riservatezza, in quanto nel nostro sistema c'è l'anonimato, quindi le persone non vengono espresse per il proprio nome e cognome, ma si conoscono per nickname. Molto semplicemente lei si collega al nostro sito internet e si iscrive alla nostra piattaforma, ci invia una serie di documenti, le viene assegnato un rating che sintetizza il suo profilo creditizio e da quel momento lei può pubblicare online la propria richiesta di finanziamento. Quali sono i documenti di cui avete bisogno da parte mia? Beh, deve essere firmato il contratto d'adesione alla piattaforma, una fotocopia di un documento di identità, una fotocopia dell'ultima busta paga e una fotocopia dell'ultimo estratto conto. Questi sono i documenti che devono essere forniti da chi intende richiedere un finanziamento. Dopodiché è chi richiede il finanziamento che pubblica su una bacheca online la propria richiesta, decidendo l'importo, il tasso di interesse che è disposto a riconoscere e la durata del finanziamento. Dopodiché tale richiesta rimane pubblicata per 15 giorni e i potenziali finanziatori decideranno se appoggiare o meno la tale richiesta. Il potenziale finanziatore ha accesso ad informazioni aggiuntive rispetto al richiedente del prestito oppure si deve accontentare di quello che voi come intermediari date come informativa? Dunque noi forniamo delle informazioni in default, dopodiché si può instaurare un rapporto diretto, una sorta di chat diretta tra il potenziale finanziatore e chi richiede il finanziamento per poter ottenere delle informazioni aggiuntive legate alla motivazione della richiesta o quant'altro. Ad un certo punto quindi l'intermediario si mette da parte. Per quello che riguarda Zopa invece, dottor Sella, mi sembra che il taglio massimo sia un po' più alto, arrivato a 15.000 euro. Si parte da 1.500 euro fino a un massimo di 15.000 euro. Quindi in questo caso il richiedente si registra al sito, fa la sua domanda su web direttamente, noi praticamente in tempo reale gli diciamo qual è il suo credit scoring e sulla base di questo viene assegnata una categoria di rischio che va dalla più al C e in quel momento lui sa esattamente qual è il tasso di interesse che andrà a pagare. Vuol dire che ci sono delle persone fisiche dall'altra parte che sono disposte a prestargli a quel tasso. Quindi è molto veloce il meccanismo. In realtà il richiedente in media consideri che entro 5 giorni lavorativi ottiene il suo finanziamento. Anche noi su Zopa ovviamente richiediamo della documentazione, perché viene approvato sulla carta e poi dopo ci devono mandare carta per confermare effettivamente quello che hanno dichiarato su web. E però devo dire, il processo è abbastanza veloce, sono persone che normalmente hanno una certa domestichezza con internet, con fax, con scanning, eccetera, per cui ci arriva la documentazione in tempi brevi. L'altra cosa che facciamo è l'allineamento RID, ovviamente, questo ci consente anche di verificare, ci sono tutti i meccanismi antifrode con la banca del richiedente, che effettivamente lui sia il titolare di questo conto corrente, eccetera, eccetera. Quindi, insomma, questo è il metodo con cui funziona l'accesso al social lending praticato da queste due aziende. Intanto volevo ricordarvi il numero verde 800 24 00 24 per intervenire questa mattina e porci naturalmente le vostre domande, perché io ne faccio parecchie, ma probabilmente magari qualche aspetto che vi interessa mi sfugge. Andiamo invece dall'altra parte. Io ho, non lo so, 10.000 euro di liquidità e voglio mettermi al servizio di queste piattaforme, quindi prestare del denaro. Ma Facebook, Uber, che controllo fa sul prestatore? Ma sul prestatore noi facciamo i controlli che vengono tipicamente fatti anche dalle finanziarie e dalle banche, quindi andiamo a consultare tutta una serie di database pubblici e privati e in base alla documentazione che ci viene inviata, in base alle risultanze della consultazione di questi database, vediamo di sintetizzare con un rating il profilo creditizio della persona che poi andrà a pubblicare la propria richiesta di finanziamento. No, forse non ci siamo capiti sulla domanda. Io sono una persona che vuole mettere a disposizione del denaro per prestarlo sul prestatore. Anche in questo caso ci si deve iscrivere alla piattaforma, devono essere inviate anche qui alcuni documenti e si deve indicare la somma che si ha intenzione di, tra virgolette, investire sulla piattaforma. Dopodiché la persona viene attivata e sarà la persona stessa che terrà monitorate le richieste che di volta in volta verranno pubblicate, e se troverà una richiesta che collima con le proprie caratteristiche di investimento potrà fare un'offerta, quindi partecipare al finanziamento di quella singola richiesta. Dottor Maffei, mi scusi se la interrompo, poi continuerà naturalmente a spiegarci, ad argomentarci insomma il funzionamento dal punto di vista del prestatore. Vi è mai capitato di imbattervi in qualcuno che volesse mettere a disposizione del denaro in questa iniziativa ma che non vi convincesse per l'origine della natura del denaro? Perché insomma una domanda che ci si fa potrebbe essere anche questa. Rifiutate un possibile prestatore? Fino ad oggi non è successo. Per cui tutte le richieste che ci sono pervenute sono state vagliate, controllate, non sono stati riscontrati assolutamente nessun, non è stato riscontrato nessun tipo di problema. Anche perché se uno volesse fare del riciclaggio di denaro, insomma, le cifre sono come regolamento, proprio per evitare questo tipo di attività, abbiamo posto un limite massimo di investimento non superiore a 50.000 euro. Quindi diciamo che sono cifre abbastanza. Che la cifra che un eventuale prestatore può mettere sulla piattaforma è molto più alta rispetto a quella invece di un possibile richiedente. Non dimentichiamo che comunque tutto è tracciato dalla banca di riferimento. Esatto. I bonifici e RID assicurano che nulla possa così scappare al controllo eventualmente. Sella, il vostro controllo invece sul prestatore come avviene? La metodica è la stessa? Assolutamente sì, diciamo che su Zopa il prestatore deve semplicemente fare un bonifico di riconoscimento, quindi ai fini di antiriciclaggio tutti i controlli sono temperati. Il bonifico deve avvenire per via bancaria e quindi questo ci consente di controllare il prestatore. Diciamo come modalità operative qua si parte da 100 euro minimo, si arriva a un massimo di 50.000 euro anche in questo caso, e quindi abbiamo preferito partire da una cifra molto bassa per far provare magari persone, studenti, giovani eccetera, che hanno una piccola cifra a disposizione e sono più interessati al meccanismo di social lending piuttosto che mettere soldi in altre fonti. Conti correnti di deposito, esatto. Non so, pure botte e quant'altro. Allora, io adesso devo andare in pausa perché abbiamo le anticipazioni del GR Extra Large, però forse riesco a far fare la domanda a Pierpaolo da Pavia, che inaugura oggi le nostre telefonate. Pierpaolo, benvenuto. Buongiorno, grazie. Buongiorno, ci dica. Io volevo fare una domanda facile, cioè quali garanzie ci sono, se ci sono, per il prestatore, polizze, fideiussioni, esiste qualche forma? appunto. Che sì, quindi per il prestatore, per il privato che mette del denaro. Perfetto. E quindi... Eccoci ritrovati, questa mattina a Salvadanaio stiamo parlando del social lending, il prestito sociale, come funzionano in Italia i prestiti tra privati, sono organizzati, strutturati, e le due grandi aziende che stanno portando con successo, perché poi comunque il fenomeno sta crescendo pian piano nel nostro paese, questa realtà, sono Zopa e Buber. Abbiamo con noi i due massimi responsabili, Maurizio Sella, amministratore delegato di Zopa, e Manolo Maffeis, direttore generale di Buber Italia. Abbiamo sentito che ci sono diversi ascoltatori pronti ad intervenire con le loro domande su queste realtà e anche diversi messaggi. Allora cominciamo subito ad accontentarli. Eravamo rimasti a Pierpaolo da Pavia, che chiedeva di spiegare ancora meglio come funzionano le garanzie per i prestatori di denaro, cioè per coloro che hanno delle disponibilità finanziarie e chiedono di accedere a queste piattaforme, dicendo insomma: io ho questo denaro, posso prestarlo ad altri privati, ovviamente sono prestiti di importi abbastanza contenuti, beh poi non tanto, perché arriviamo anche a 15.000 euro. E allora le garanzie, ribadiamole ancora, per il prestatore di denaro. Cominciamo con Manolo Maffeis di Buber. Allora, noi come Buber garantiamo fino al 15% la quota capitale, ma la vera garanzia non è questa, è che in un'iniziativa come questa la nostra credibilità si costruisce sulla nostra capacità di contenere il rischio, quindi di filtrare il rischio al momento della richiesta di iscrizione da parte di un potenziale richiedente un finanziamento. Questo è il vero valore aggiunto che noi dobbiamo essere in grado di portare e di consegnare ai nostri finanziatori. Ecco, ma ammettendo che poi magari una persona mette a disposizione della piattaforma, non lo so, 2.000-5.000 euro, sì, ed è chiaro che non tutta la cifra va ad accontentare magari la richiesta di prestito di un'unica persona, quindi forse anche in quella diversificazione lì sta la garanzia, credo, poi non lo so, questa non so se è una considerazione banale. Però ammettendo che questa cifra vada a finire esclusivamente ad un unico richiedente, dottor Maffeis, siccome le condizioni economiche abbiamo appreso negli ultimi anni come possano cambiare drasticamente da un mese all'altro per molte persone, se la persona che ha chiesto il prestito si ritrova non più nelle condizioni di pagare al prestatore la cifra che ha messo a disposizione, che succede? Allora, innanzitutto il nostro regolamento prevede che un finanziatore possa al massimo prestare a una singola richiesta di finanziamento 500 euro, quindi si porta a una diversificazione molto accentuata proprio per limitare i rischi. Nel momento in cui un finanziato non fosse più in grado di onorare il proprio debito, si attivano tutte quelle attività di recupero crediti che fanno capo a Buber, che tentano di riportare chiaramente in bonis sia con un'attività giudiziale che extragiudiziale la posizione. Quindi banalmente chiamate, per esempio, anche vi mettete voi in contatto con la persona che è in difficoltà, cercate di capire se è una situazione temporanea o duratura. Esattamente. Anche perché siamo solo noi a sapere le generalità di questa persona, quindi c'è tutta una fase che viene gestita direttamente da Buber con le classiche attività di recupero crediti che vanno dall'invio della lettera, alla telefonata, all'incontro per capire le problematiche che ci possono essere, se possono essere superate, quindi tutta questa attività rimane in capo a Buber. Dottor Sella, Zopa invece che cosa succede? C'è un invece? Sì, certo. Beh, intanto vorrei richiamare l'aspetto sociale di un'attività di questo tipo, cioè gli utenti di Zopa si sentono parte di una comunità. E noi abbiamo di fronte a noi l'esperienza della Zopa in Inghilterra, che sono esattamente 4 anni di attività e hanno dei tassi di insolvenza bassissimi, stiamo parlando del 0,3%. Quindi questo aspetto di far parte di una comunità predispone sicuramente i richiedenti prestito in misura migliore a ripagare il proprio debito rispetto ad avere un debito verso, immagino, una banca o una finanziaria. Questa è l'evidenza di un business. Intanto Zopa, diciamo come funziona, il proprio denaro viene frazionato automaticamente tra almeno 50 diversi richiedenti, quindi è un frazionamento molto pesante. Quindi è impossibile che tutto il denaro che io metto a disposizione finisca ad un unico possibile acquirente di questo prestito. Assolutamente, poi tra l'altro noi abbiamo un meccanismo per il quale se un prestatore decide di prestare il suo denaro, diciamo, al 5%, in realtà noi per sicurezza ulteriore applichiamo, non prestiamo il denaro al 6%, ma lo prestiamo intorno all'8%, quindi quel 2% di cuscinetto che dovrebbe coprirlo di fronte a eventuali insolvenze. Questo è un cuscinetto, non è la remunerazione della piattaforma che fa incrociare domanda e offerta? No, è un cuscinetto, nel senso, noi il denaro viene prestato all'8%, se per caso i richiedenti pagassero tutti l'8%, come per fortuna sta avvenendo, il prestatore ottiene fine l'8%, non è che teniamo noi quella differenza. C'è un dato interessante. Vabbè, però poi questo ce la deve chiarire, perché non credo che voi facciate niente per niente, in qualche maniera la vostra attività deve remunerarvi, poi su questo ci torniamo magari. Sì. C'è un dato solo interessante, che da quando abbiamo introdotto la possibilità di assicurarsi su Zopa, abbiamo il 70% di richiedenti prestito che si sta assicurando per disoccupazione, per morte e per incapacità. Ovviamente abbiamo delle condizioni molto buone per permettere l'assicurazione al richiedente, ma questo è un dato anche molto rassicurante, credo, per Pierpaolo di Pavia, che ci chiedeva quali sono le garanzie. Quindi eventualmente anche attraverso la vostra intermediazione c'è la possibilità di assicurarsi da eventuali circostanze improvvise negative che ci possono capitare nella vita, come drammaticamente la perdita del posto di lavoro, quindi la perdita del nostro reddito e la possibilità appunto di ripagare i finanziamenti che abbiamo in corso, tra cui potrebbe esserci anche questo con queste piattaforme. 800240024 è ancora il numero verde a vostra disposizione per le vostre domande. Enrico da Cagliari. Anzi no, Enrico, mi scusi, perché c'era Giorgio d'Alessandria prima, gli avevo già dato la precedenza. Giorgio, benvenuto. Volevo sapere, faccio una domanda banale, ma quando uno accende un prestito con queste... Sì. Insomma, con Zopa, viene poi segnalato, caricata anche in banca dati, in CRIF, cioè come con le altre finanziarie, o c'è qualche differenza? Giorgio, beh, qualora, insomma, credo lei intenda, la persona non sia in grado di onorare il suo prestito, finisce nella famosa lista dei cattivi pagatori. Allora, sentiamo Buber che cosa fa. Sì, nel momento in cui si utilizzano i sistemi di informazioni creditizie per definire il profilo creditizio di una persona, è poi chiaro che la capacità poi di onorare il finanziamento che viene acceso viene segnalata e viene comunicata a queste società. Zopa per... La risposta sì, è positiva. Sì, certo, grazie. Dottor Maffei, Sella per Zopa. Diciamo che ovviamente noi al momento della richiesta di finanziamento, come dicevo, via web diamo una risposta immediata, in quanto siamo autorizzati dal richiedente a fare delle interrogazioni alle società di informazione creditizia di Experian o CRIF. Quindi ovviamente, così come riceviamo informazioni, nel momento in cui il nostro richiedente è moroso, ovviamente siamo obbligati a dare le informazioni negative. Quindi purtroppo, o per fortuna meglio, la risposta è sì, ma anche noi contribuiamo. Io tra l'altro vorrei anche cercare di capire, adesso spero di non mettervi in difficoltà, perché una persona che ha o la disponibilità, diciamo, di finanziaria da poter utilizzare in questo modo, o se mi trovo nella condizione di dover chiedere un prestito attraverso questi veicoli, mi chiedo perché devo scegliere Buber piuttosto che Zopa, o Zopa piuttosto che Buber. Sentiamo come me la vendono i due massimi responsabili di queste aziende. Maffei, che differenza c'è tra voi e Zopa, se la dovessi descrivere ad una persona, facendo finta che qua non ci sia Sella, naturalmente? Innanzitutto abbiamo l'aspetto positivo che abbiamo portato in Italia un servizio altamente innovativo. Siete arrivati poi, prima voi o Zopa? Siamo arrivati in contemporanea. Sono per giù in contemporanea, sì. In contemporanea, sì. Usiamo due modelli diversi, ogni modello ha i pro e i contro. Noi usiamo un modello che lascia molto più spazio all'interattività, quindi al rapporto tra richiedente finanziamento e potenziale finanziatore, quindi si crea un rapporto, è la persona che richiede il finanziamento che decide il tasso, l'importo, la durata, ed è la persona stessa, il potenziale finanziatore, che decide di volta in volta quale singola richiesta di finanziamento andare a finanziare. Quindi c'è una interattività molto molto molto spiccata. Invece voi siete un po' più controllori di questo aspetto per quello che riguarda Zopa, dottor Sella? Ma diciamo che noi, intanto per rispondere alla sua domanda, perché andare su Zopa piuttosto che una fonte finanziaria? Ma io credo che questo fatto di poter richiedere un finanziamento standosene seduti a casa, speriamo non in ufficio ovviamente, e senza dover avere quella spiacevole esperienza di sedersi di fronte a un funzionario. Diciamo, di una finanziaria, ma per non parlare anche delle banche, credo che sia un vantaggio enorme, ed avere immediatamente una risposta sia sicuramente molto positivo. Cioè, il meccanismo è molto veloce. Oltretutto i tassi di interesse, cioè noi confermiamo immediatamente quali sono i tassi di interesse secondo il proprio profilo di rischio. Questa è una grossissima differenza, cioè se io sono stato un buon pagatore riesco a pagare dei tassi del 5,90% in questo momento su cifre piccole, su 5.000 euro eccetera, è il tasso migliore che esista sicuramente sul mercato italiano. Questo grazie a Zopa.it ovviamente siamo riusciti ad ottenere. Insomma, è così, hanno sponsorizzato i nostri due interlocutori questa mattina la propria attività. Andiamo ancora invece alle domande di natura molto pratica dei nostri ascoltatori. Enrico da Cagliari, benvenuto. Enrico, sì, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Sì, in parte mi è già stato risposto, perché chiedevo, investendo una cifra abbastanza ridotta, circa 2.000 euro, se potevo suddividere questo importo fra le varie persone che richiedevano il prestito. Quindi, insomma, mi pare... per poter diminuire il rischio che magari non mi venissero restituiti, ecco. Perfetto, Enrico. No, tra l'altro magari possiamo approfondire questo aspetto, ma FACE, la persona che vuole distribuire al massimo il rischio di questo, mi viene da dire, investimento, ma non lo chiamiamo così perché in realtà non è così, lo deve stabilire sin dall'inizio, lo deve dire subito? No, oppure avviene in automatico, ecco. No, non viene in automatico. Nel momento in cui la persona che decide di investire in Buber, non so, decide di investire 10.000 euro, ha come obbligo minimo quello di diversificare almeno su 10 posizioni, su 20 posizioni diverse l'importo che intende investire. Benissimo. Da un minimo di 50 euro al massimo di 500 euro su ogni singola posizione. Me l'avevate spiegato molto chiaramente anche prima, evidentemente. La mente stamattina vola, guarda la borsa, anche che cresce, che ne so, quando vede qualche buona notizia, come anche quella di cui parliamo questa mattina. Mi ero distratta. Eccoci ritrovati in diretta. Dottor Sella, amministratore delegato di Zopa, ci dà il sito dell'azienda in modo tale che qualcuno che voglia informarsi, che è facilissimo. Allora, il sito è zopa.it, zopa.it. Dottor Maffei, se per quello che riguarda Buber lo stesso sarà www.buber.it? Esattamente, con due O, mi raccomando. Con due O, esatto. B-O-O-B-E-R. Allora, molti ascoltatori dicono, ma insomma io ho letto qualcosa di non proprio positivo su queste attività, ci sono delle riviste specializzate che sconsigliano questo tipo di investimento. Allora, io intanto non vorrei definirlo così, Manolo, ma FACE, se io ho 2.000 euro e li voglio mettere a disposizione di questa comunità per poter permettere a qualcun altro, magari in difficoltà, di avere un prestito, lo dobbiamo considerare un investimento, anche se poi le remunerazioni sono nell'ordine di cui abbiamo detto prima. Ma guarda, io credo che una persona che decide di investire parte dei propri guadagni in un'iniziativa come questa lo deve fare innanzitutto perché sa che in questo modo può andare ad aiutare delle persone che sono magari temporaneamente in difficoltà, gli offrono un'opportunità in più per avere un accesso al credito. Questa deve essere, diciamo così, la motivazione principale. Poi è chiaro che non si fa nulla per nulla, c'è anche un ritorno da un punto di vista economico, e nel nostro caso, come tutti gli internauti richiedono, c'è anche un aspetto ludico, cioè il fatto di poter interagire con una comunità fatta di richiedenti un finanziamento e di prestatori. Allora, adesso sentiamo un po' però per chi fa questo prestito, per chi mette a disposizione del denaro che vada poi ad essere utilizzato da altri, guadagno di fatto ce lo fa. Claudio da Roma, lei si domanda forse come viene poi tassato questo guadagno? Esatto. Sì, voleva argomentare un po' meglio. Sì, volevo sapere il regime fiscale al quale è assoggettato questo tipo di operazioni. Mi spiego meglio. Il risparmiatore che deposita in banca paga il 27%, il risparmiatore che investe in titoli di Stato paga il 12,50%. Ecco, su questo tipo di investimenti qual è il regime fiscale e chi è che opera all'origine, alla fonte, il risparmiatore? Grazie Claudio per la chiarezza. Allora, abbiamo una nuova aliquota fiscale per un guadagno di questo tipo, dottor Sella di Zopa. Dunque, intanto Zopa applica una ritenuta d'acconto del 12,5%, è un acconto in effetti che noi facciamo, in quanto i redditi percepiti su questa attività devono essere portati in dichiarazione, e Zopa in realtà produce anche, abbiamo appena finito di produrre, una certificazione fiscale che deve essere allegata alla propria dichiarazione di redditi. Diciamo, non siamo molto contenti di questa tassazione, si può stimare che in media circa una tassazione media intorno al 35%, ecco, voglio dire. Dottor Maffei, se voi avete una disciplina diversa? No, confermo che anche va messa una dichiarazione di redditi, purtroppo. Sì. Antonino da Padova, purtroppo. Sì, perché le aliquote sono alte per me. Per voi la ritenete troppo alta. Antonino da Padova. Eccoci qua. Allora, ho aperto, intanto salute a tutti, ho aperto il sito della Zopa, ottimi rendimenti, grosso modo 7,9%, tasso ottenuto eccetera eccetera negli ultimi 12 mesi. Poi vado a guardare invece, se chiedessi un prestito, quello che mi viene chiesto è il 4,8%, grosso modo. Sì. c'è qualcosa che non mi funziona. Sì, infatti, ce lo spiegava anche prima dottor Sella, comunque, che il fatto che magari la remunerazione che viene chiesta alla persona che chiede il prestito è di un determinato tipo. No, aspetti, cosa sì, che no, prima mi diceva. Normalmente il tasso viene aggiunto, un tasso non ridotto. Esatto, l'aggiunta del quindi di il un, tasso, di margine. Allora, a seconda del prestito bisogna specificare che ad ogni persona viene affidato un rating, quindi si parte dal rating A+, che parte con dei tassi del 5,8%, e si arriva ovviamente a tassi più alti, intorno all'11%, potrebbe essere, per chi chiede dei prestiti è una categoria, sta nella categoria C. Il tasso medio per i richiedenti è 9,6%, mentre chi presta è il 7,9%. Quindi questa differenza è normalmente dovuta alle nostre commissioni, ecco. Quindi eccolo, credo là, che sia stato mal interpretato, perché non è che chi richiede possa ottenere condizioni a 4,8%, mi sembra molto poco. Antonino, è più chiaro? Anche se fossi attendibilissimo, non mi vengono mai prestati i soldi al 4,8%, grosso modo siamo intorno al 9%, l'11%, insomma. No, no, in realtà se lei è un ottimo richiedente può ottenere dei tassi molto bassi, le assicuro, questo, siamo anche in diverse classifiche, il tasso del 5,8% è sicuramente il miglior tasso in Italia, però diciamo che con Zopa si paga un tasso in funzione della propria storia creditizia. Se lei va da una banca a una finanziaria, normalmente hanno un tasso, chiamiamolo cartello, ecco. Antonio da Milano invece, poi questa domanda la giriamo a Manolo Maffes di Buber. Antonio, buongiorno a tutti. Rapidissimo, la ringrazio. Sì, la domanda era solo questa: nel momento in cui si vuole diventare prestatori, la cifra, per quanto, se c'è un tempo minimo in cui bisogna tenerla, e di quant'è? Allora ritorniamo a Maffes di Buber. Sì. Allora, nel nostro caso, nel momento in cui ci si iscrive alla nostra piattaforma, si indica la cifra che si intende mettere a disposizione, e verrà addebitata sul suo conto corrente solo nel momento in cui lei sceglie di finanziare una singola richiesta di finanziamento, quindi non prima. Cioè solo nel momento in cui lei sceglie di finanziare, a questo punto noi preleviamo i soldi e li mettiamo a disposizione della persona che ha deciso di finanziare. Nulla le viene chiesto prima. Prima. Stefano da Varese. Sì, buongiorno. Buongiorno. Ecco, no, mi ricollegavo proprio a questo. Il prestatore sceglie di finanziare, cioè è lui che comunque decide se finanziare una o l'altra persona, cioè quali elementi ha per decidere? Cioè non è in questo caso la social lending che si occupa di diciamo di individuare la persona che verrebbe finanziata, cioè comunque l'approvazione deve essere fatta sempre dal prestatore? Sì, esattamente. Sì, sì, ma sì. Sì, sì, prego, prego, poi faccio rispondere anche a Sella. Mettiamo a disposizione del potenziale finanziatore alcune informazioni che sono tipicamente la provincia d'appartenenza, l'età, il rating, quindi il profilo creditizio, che è uno degli elementi essenziali sul quale basare la propria decisione, e altre informazioni. Dopodiché, come dicevo prima, lei che volesse avere qualche informazione in più è messo nelle condizioni per poter contattare chi ha pubblicato la richiesta e farle tutte le domande che ritiene necessarie per raccogliere informazioni utili a prendere una decisione finale. Sella per Zopa. Ma nel nostro caso il meccanismo è un pochino più automatico, voglio dire, il prestatore stabilisce una certa cifra, può stabilire la categoria di rischio alla quale prestare i propri soldi, e siamo noi che matchiamo la sua offerta di denaro con le richieste di denaro di quella particolare categoria. Matchiamo nel senso che li fate incontrare, insomma, organizzate questo match. Tra l'altro ci sono degli ascoltatori che chiedono: ci si può iscrivere ad entrambi i siti? Certamente. Quindi, mancherebbe assolutamente. Sia sì, come richiedenti che come prestatori? Allora, nel nostro caso si iscrive come finanziatori o come richiedente un finanziamento. No, nel senso che se io sono un prestatore di denaro posso iscrivermi sia a Zopa che a Buber, ma è ovvio che magari non è che vado a prestare denaro su Zopa e dall'altra parte mi iscrivo come richiedente, sarebbe una contraddizione, ma questo vabbè. Potrebbe anche accadere, lo verificate ovviamente. Siamo nelle condizioni esattamente. Vabbè, insomma, speriamo che questa eventualità estrema non si verifichi, per non mettere in difficoltà nessuno. Allora, io vi ricordo che domani potete trovare in edicola con il Sole 24 Ore il quinto volume della storia dell'economia mondiale, dal titolo La forza prorompente del capitalismo e i suoi antagonisti. Ecco una breve pillola tratta da questo volume. L'evoluzione dei mezzi di pagamento di Charles Kindleberger. La rivoluzione fece precipitare la Francia nel caos monetario, dal momento che risultava difficile riscuotere le tasse da contadini in rivolta e nobili emigrati. Al posto delle monete, le autorità rivoluzionarie emisero assignats, titoli di Stato garantiti dai cosiddetti bien nationaux. All'inizio i buoni, di elevato valore nominale, erano vincolati a specifiche quote di proprietà, ma gradualmente questo legame specifico si indebolì fino a svanire del tutto e gli assegnati vennero emessi in tagli sempre più piccoli e in quantità sempre maggiori. E Salvadanaio anche oggi termina qui. Abbiamo parlato del prestito tra privati, del social lending, e ci ritorneremo se questa realtà continua a crescere così tanto come ha fatto negli ultimi anni. Cercheremo sempre di più di seguirla con interesse come stamattina. Grazie a Maurizio Sella, amministratore delegato di Zopa. Grazie a voi. E grazie anche a Manolo Maffei, direttore generale di Buber con due O in Italia. Buongiorno. Grazie mille a voi. Grazie, a presto. Noi ci risentiamo domattina a Soldi d'Intorni alle 8:15, domani alle 12 a Salvadanaio. Da Deborah Rosciani, buona giornata. Salvadanaio.